Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, eccoci alle 7:15 minuti, cari ascoltatori, leggere i giornali con voi, per voi, insieme a voi. E allora vi ricordo intanto il tema che approfondiremo oggi. Oggi alle 8:15 racconteremo una storia molto intensa. Torneremo sul tema del suicidio assistito in Svizzera. Vi ricordate che l'avevamo fatto un mese fa, raccontando la storia di una donna che aveva accompagnato il padre per il suicidio assistito in Svizzera. Oggi racconteremo la storia di un'altra figlia, di un'altra donna, la figlia del giudice Pietro D'Amico, che ha compiuto la stessa scelta in solitudine. La figlia Francesca, che dice: non mi sta bene quello che è successo in quel paese, probabilmente qualcuno non ha aiutato mio papà. La racconteremo alle 8:15, sarà con noi Francesca D'Amico, per l'appunto, sarà con noi anche Cinzia Caporale, che è componente del comitato di bioetica, per raccontare questa storia. Questa alle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. È martedì 9 luglio. I titoli, il Sole 24 Ore apre sull'Italia da sbloccare, edilizia, allarme, burocrazia, persi 446.000 posti di lavoro. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. C'è un'apertura, diciamo, molte sono dedicate al Papa, a Lampedusa, tra poco le vedremo. La notizia sicuramente nuova e che il Corriere ha in prima pagina è Berlusconi, il caso interdizione. Un articolo di Luigi Ferrarella racconta come calcoli tecnici facciano spostare l'ipotesi della decadenza da senatore di un anno, si allontana di un anno, perché sono calcoli di prescrizione, calcoli della macchina della giustizia. La notizia è Berlusconi si sposta di un anno l'ipotesi di decadenza da senatore. Il Papa, per l'appunto, Repubblica, il Papa, immigrati, perdonateci, questo è il titolo di apertura. Il Fatto Quotidiano, il grido del Papa, 20.000 morti e non sappiamo più piangere. La Stampa, migranti, la scossa del Papa. Identico titolo, cambia solo la parola immigrati, la scossa del Papa sul Messaggero. Il titolo di prima pagina di Avvenire invece è mai più indifferenza e c'è la foto del pontefice a Lampedusa. Cristo è sbarcato a Lampedusa, questo è il titolo dell'Unità, mentre Libero ci salva la vacanza, e dunque siamo sul tema economico, turismo a gonfie vele. Il Giornale, ecco i 100 abusi di Stato, burocrazia criminale. Questi alcuni dei titoli, anche il Manifesto torna sul Papa, santi subito, il Papa fa di Lampedusa la prima tappa del suo pontificato, santi subito il Papa in mezzo ai migranti. Allora, voglio partire invece da che cosa? Da questa politica, ne abbiamo parlato ieri. Ieri ho parafrasato Ungaretti, no? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Tutto in autunno, deve succedere tutto in autunno, evidentemente. Guardate che è una cosa incredibile, basta leggere i giornali, è tutto rinviato. Oggi trovate almeno due titoli che sono il PD prende tempo sulle regole, sul Repubblica. Il Messaggero, Letta prende tempo e domani non sarà al vertice di maggioranza. Sull'IMU si prende tempo, sull'IVA si prende tempo, sugli F-35 si prende tempo, su tutte le decisioni economiche, la spesa, revisione della spesa, spending review, si prende tempo, tutto in autunno. Renzi si candida? Deciderò in autunno. Tutto in autunno, tutto immobile, è solo che il tempo non è che sia tantissimo. Guardate altri due esempi. Repubblica, e questa è proprio una notizia da tenere le mani strettissime sul volante, strettissime, mi raccomando. Alla Camera, pioggia di emendamenti, rallenta la legge sui soldi ai partiti. Sapete, la legge presentata in pompa magna, come dire, basta, aboliamo il finanziamento ai partiti, passiamo al 2 per 1000, quella roba là, no? Tommaso Ciriaco racconta, pagina 12, come ci sia una fortissima resistenza dei partiti. E Letta dice: non accetto stravolgimenti. Allarmato dalle manovre in corso, Letta ha già consegnato il messaggio agli ambasciatori della maggioranza: non permetterò che il mio DDL venga snaturato. Eppure, nonostante l'avvertimento del Premier, scrive Repubblica, la cancellazione del finanziamento ai partiti traballa pericolosamente. La tentazione dei partiti è quella di non abolire del tutto l'automatismo. La furia emendativa minaccia di stravolgere il testo. Il rischio è che il provvedimento resti incagliato nelle secche dei veti incrociati. Avete capito? Non si fa nulla. Il via libera in commissione è previsto entro luglio. Difficilmente la tabella di marcia sarà rispettata. PD, PDL e Scelta Civica reclamano tempo. Tempo, cari italiani, tempo. Si farà in autunno. Si farà. Si farà in autunno. Questo per il finanziamento ai partiti. Anche sul Sole 24 Ore, a pagina 12, finanziamento ai partiti, siamo a pagina 12. Rischio stallo, Riccardo Ferrazza. Da qualche giorno c'è un gran volteggiare di voci intorno a un provvedimento simbolo del governo Letta, il DDL, col quale viene abolito il finanziamento pubblico ai partiti. A preoccupare Palazzo Chigi non sono le singole disposizioni di chi, come lo storico tesoriere dei DS Sposetti, lo citava prima il nostro amico Vincino, si dice pubblicamente contrario all'azzeramento, quanto le ipotesi di stravolgimento del testo a cui starebbe lavorando nell'ombra la maggioranza. Interventi che magari avrebbero l'effetto di far slittare l'approvazione della legge e impedirne così l'entrata in vigore nel 2014. Tempo, ci vuole tempo. Per esempio, i saggi. Cari ascoltatori, ancora molti mi scrivono, ci lasciano messaggi in segreteria telefonica per la memorabile prestazione del saggio D'Onofrio, no? Che è sbottato venerdì scorso qui ai nostri microfoni a dire: ma noi pensiamo, si può pensare gratuitamente o no, visto che non veniamo pagati? Per la verità, detto, prendiamo solo un rimborso del CA. Ebbene, i saggi si sono visti ieri come ogni lunedì. E pensando, cari ascoltatori, si sono spaccati. Riforme, i saggi divisi sul semipresidenzialismo, pagina 9 della Stampa, ma anche sul Sole 24 Ore, pagina 12, il titolo è lo stesso: saggi divisi sul semipresidenzialismo. Nel giorno in cui il Presidente della Repubblica torna a ricordare il filo che unisce le riforme istituzionali e la modifica della legge elettorale, i 35 saggi si spaccano sulla forma di governo. Voi dovete immaginarli lì che pensano, ripensano, dibattono, discutono gratuitamente. È possibile o no, direbbe il saggio D'Onofrio, si può ragionare e pensare liberamente o no? E si sono divisi su questo tema: semipresidenzialismo oppure no. Intanto fa sapere il governo che sono 4.000 gli utenti che hanno partecipato ieri, primo giorno di iniziativa, alla consultazione popolare avviata dal Ministero delle Riforme. L'indirizzo è www.partecipa.gov.it. Lì, se cliccate, www.partecipa.gov.it, potete partecipare anche voi e dare il contributo ai saggi. Cari ascoltatori, cosa state aspettando? Solo 4.000 ieri. Forza, fatelo subito, fermatevi se state andando a lavorare, se state bevendo il caffè, fermatevi. Dovete partecipare, dare il vostro contributo, la vostra proposta per le riforme costituzionali. A ottobre c'è anche un comitato nato apposta, tre componenti, presieduto dall'ex ministro Profumo, che gestisce la scientificità di questa consultazione popolare. Primo giorno 4.000, ma forza, adesso facciamo pubblicità, partecipa.gov.it, andate lì e date la vostra proposta per la riforma costituzionale. Ieri ancora il presidente della Repubblica Napolitano insiste, giustamente, ma insiste da anni: il nodo legge elettorale sarà sciolto. Questo è il titolo di pagina 12 del Sole 24 Ore. So che c'è un problema tra riforma istituzionale e riforma della legge elettorale, ha detto Napolitano, ma verrà via via risolto. Chissà, forse in autunno. Forse in autunno si dimetterà anche il sindaco e viceministro sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che mantiene la doppia poltrona. in barba a quello che hanno fatto gli altri ministri. Non so, il ministro Del Rio si è dimesso da sindaco, altri si sono dimessi, Zanonato si è dimesso da Padova. E invece De Luca se ne va. Salerno, De Luca se ne va, anzi resta. Pagina 7 del Fatto Quotidiano: il vice ministro non si dimette. Maria Grazia Gerini e Vincenzo Iurillo raccontano: se ne va, no, anzi resta a Salerno per interposta persona, sarà il vice sindaco di fiducia a presidare il fortino del consenso. Dimissioni è una brutta parola, meglio decaduto avrà pensato il sindaco vice ministro PD Vincenzo De Luca, come fece nel 2000 Antonio Bassolino, che andò a fare il governatore della Campania senza dimettersi da sindaco di Napoli, donando un altro anno di vita aggiunta ai consiglieri. Sarà così anche a Salerno, dove ieri mattina il Consiglio Comunale ha deliberato con 23 sì, 4 no, 5 astensioni la contestazione dell'incompatibilità. Voto palese, discussione a tratti surreale. Un consigliere ha perfino rivendicato con orgoglio l'attaccamento alla poltrona. La procedura ora prevede 10 giorni per le controdeduzioni di De Luca. Ma non è, dite, tutto chiaro? Cioè uno è sindaco, viene eletto ministro, lascia... La fate facile voi, la fate facile, non è così facile. C'è la decadenza della giunta, poi c'è il lavoro da portare avanti. Comunque, scrive il Fatto, nel governo Letta De Luca non è un caso isolato. Prima di lui era stato il ministro degli affari regionali Del Rio, già sindaco di Reggio Emilia, a percorrere la stessa strada della decadenza preferita alle dimissioni. In Parlamento era una quarantina di parlamentari con doppio incarico, ma adesso pare che si siano risolti. Si siano risolte tutte le situazioni o no? Sì, penso proprio di sì, si sono risolte tutte. Comunque sta di fatto che De Luca rimane ancora vice ministro e sindaco di Salerno per il momento. Voglio, prima della pubblicità, regalarvi la chicca del comandante Schettino. È tornato, ve lo ricordate, pagina 12 del Messaggero, qualche domanda di Cristiana Mangani, e fa qualche domanda a Schettino, che deve presentarsi il 17 luglio in aula. C'è stato lo sciopero degli avvocati, quindi il 17 luglio sarà un'udienza breve. Schettino dice: non voglio telecamere al processo. Già il processo verrà fatto in un teatro, se ci sono pure le telecamere diventerà un film. È già stato uno scempio mediatico dal giorno della disgrazia. Ho fatto una richiesta, credo che domani me lo chiederanno solo formalmente. Credo fermamente nell'accertamento della verità, ho manifestato serietà. Avete sentito, Schettino? Ho manifestato serietà. Devo dire però che le telecamere non mi hanno mai fatto bene. Inizialmente, per come è stato raccontato, nessuno ha pensato che quello era stato un incidente. Non è che improvvisamente il comandante è uscito pazzo. Non è andata così. Cosa devo dire? Perché è affondata la nave? Quanta gente si interessa veramente di quei morti? Chiede il comandante Schettino, che al Messaggero dice: niente telecamere in aula per il processo. Vabbè, fermiamoci per la pubblicità del meteo, poi ripartiamo da quest'Italia bloccata, ingessata, non si sblocca nulla. Tutti legittimamente, in alcuni casi, protestano. La politica cosa fa? E aspetta l'autunno, quel memorabile autunno del 2013 in cui faremo e faranno tante di quelle cose. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora eccoci qua, tutto in autunno succederà. Intanto la situazione economica è al disastro, o comunque non è una situazione economica molto florida. Draghi ieri, in una audizione al Parlamento europeo, il governatore della Banca Centrale Europea, ha detto anche: il disagio sociale è una tragedia. Questo è il titolo di pagina 7 del Sole 24 Ore. Va tenuto conto della tragedia rappresentata in molti paesi dalle difficoltà sociali, dalla disoccupazione giovanile, un'osservazione che Draghi ha ripetuto in numerose occasioni negli ultimi tempi. Certo, ma intanto non si muove nulla. Per questo, come scrivono i giornali, il Corriere della Sera pagina 9, il Quotidiano Nazionale a pagina 10, il presidente di Confindustria Squinzi oggi ha chiamato le istituzioni, ha invitato i presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, e i presidenti delle commissioni per una cena, insomma, nella residenza romana di Confindustria in via Veneto, per come obiettivo riprendere il dialogo con le istituzioni, sensibilizzarle sui temi anche dell'impresa. Soprattutto ieri sono ancora scesi a protestare in strada i responsabili imprenditori del comparto dell'edilizia, cantieri chiusi da 100 vessazioni. Il titolo a pagina 2 del Sole, insomma, al giorno della collera che ritorna con tutti questi caschi gialli depositati a Piazza Affari di Milano, il simbolo, i caschi gialli dell'edilizia, un settore che ha detto è allo stremo. Torna la protesta, oltre che la proposta dei caschi gialli, con il presidente di Confindustria che dice: mi sento uno di voi. Insomma, questa situazione di immobilismo. Certo, tutti sono immobili tranne altri. Un esempio, c'è un simbolo del lusso italiano, l'Oro Piana, che è stato acquisito dai francesi. 2 miliardi di euro il gruppo Louis Vuitton ha acquistato il marchio Loro Piana, ha rilevato l'80% di capitale, l'opzione di salire al 100% entro 3 anni, come avete sentito anche in GR24. Insomma, dopo Bulgari e Fendi, un altro marchio, il Made in Italy, finisce in mani estere. Carlo Festa e tutti i dettagli nella prima pagina di Finanza e Mercati. Il colosso francese Louis Vuitton fa di nuovo campagna acquisti in Italia, riesce in poco più di un mese di trattativa a conquistare il gruppo Loro Piana, marco celebre del cashmere e delle lane più rare. L'operazione è un vero blitz, avvenuto a una cifra record. Con i fratelli Sergio e Pierluigi Loro Piana cedono infatti l'80% dell'azienda familiare al gruppo francese per 2 miliardi di euro. Ci sono tutti i dettagli dell'accordo. Questa è la situazione, cioè non tutti sono immobili. Intanto anche un pezzo d'Italia, in questo caso del lusso italiano, se ne va. E qua in Italia la politica davvero è in una fase in cui non si riesce a decidere nulla, si litiga solo. Pare che adesso dal Popolo della Libertà siano scese un po' le accuse nei confronti del ministro dell'economia Saccomanni, ieri difeso a spada tratta anche dal premier Enrico Letta, per cui anche Libero la mette così: governo ballerino, mezzo PDL vuole la testa di Saccomanni e Fassina. Oggi Silvio Berlusconi darà la linea. Un Silvio Berlusconi ieri è andato alla presentazione del Milan, ma ha parlato di Milan, ha parlato poco del paese. Anche per la stampa, sull'IMU il Cavaliere non intende far cadere il governo. Ugo Magri racconta: il leader del PDL è deciso a abbassare i toni su Saccomanni. Ma passano i giorni così, senza che si decida nulla, ma solo sul balletto della politica. Guardate un altro titolo di pagina 5 del Giornale: Berlusconi ha già deciso, Letta rimandato a settembre. Ecco, in quel memorabile autunno del 2013 in cui deve succedere tutto, devono prendere decisioni sulla riforma elettorale, l'abolizione delle province, l'IMU, l'IVA, l'F35, i ticket sanitari, la spending review, l'abbattimento del debito pubblico, tutto in autunno, succederà tutto in autunno. Il Cavaliere è disposto ad accettare una soluzione decorosa sull'IMU, scrive il Giornale, e sull'IMU per il momento tutto bloccato anche, guardate, è un paradigma dell'Italia, non si decide nulla. E su questa la notizia, vado sul Corriere della Sera, è l'apertura, anche la vicenda della cosiddetta incompatibilità o ineleggibilità o decadenza di Silvio Berlusconi. Sapete, doveva iniziare questo procedimento anche il 9 luglio, era fissato al Senato, ma oggi il Corriere della Sera ha in prima pagina questa notizia: Berlusconi, il caso interdizione, l'ipotesi della decadenza da senatore si allontana in avanti di un anno. L'articolo è di Luigi Ferrarella e ci sono tutti i dettagli a pagina 12. Berlusconi, la pena è da ricalcolare e l'interdizione si allontana. Almeno un altro anno di agibilità politica, così inizia l'articolo Ferrarella. Persino nel peggior caso per Silvio Berlusconi, cioè se la Cassazione ne confermasse la colpevolezza per frode fiscale nel processo sui diritti TV Mediaset, la combinazione di 3 fattori giuridici allontanerebbe la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che altrimenti a fine 2013 lo farebbe decadere da parlamentare e gli impedirebbe di ricandidarsi. A poter cambiare totalmente l'orizzonte politico sono 3 elementi: Il primo è un complicato calcolo aritmetico giuridico sui vari periodi di sospensione subiti dal Dipartimento. Il secondo è l'imminente prescrizione, già prima del giudizio di Cassazione per effetto della legge ex Cirielli di 8 anni fa, di una delle due annualità fiscali per le quali Silvio Berlusconi è stato condannato in tribunale in appello a 4 anni di reclusione e a 5 di interdizione ai pubblici uffici. Il terzo elemento è la conseguenza procedurale innescata da questa parziale prescrizione, cioè un probabile nuovo processo d'appello anche solo per ricalcolare la pena residua. Vi è venuto il mal di testa? Diciamo, il dato di fatto è che per questi complicati meccanismi, complicati da capire, meccanismi giuridici, per chi non è avvezzo a queste cose, comunque scrive Luigi Ferrarella tutto l'articolo a pagina 12, il risultato concreto è che la pena è da ricalcolare per Berlusconi, l'interdizione ai pubblici uffici dunque non scatterà sicuramente nel 2013 in caso di condanna definitiva in Cassazione, ma Berlusconi avrà un altro anno di tempo, sempre in caso di condanna confermata, per far scattare il calcolo dell'ineleggibilità dopo l'interdizione eventualmente confermata, e dunque anche lì per altri motivi, non certo per inazione della politica, in avanti, rimandiamo in avanti. È un po' la politica italiana, è un po' la cultura italiana, no? La cultura del rimandare. Quindi stona un po' l'articolo, tra l'altro, di Libero: se provano a farmi fuori questa volta salta tutto. Salvatore Dama, giovedì inizia in Parlamento il dibattito sulla ineleggibilità di Berlusconi, ma forse questo articolo di Luigi Ferrarella sul Corriere che sposta i tempi farà slittare anche questo dibattito, chi lo sa. Intanto Renzi è un altro che si candida o non si candida? Deciderà in autunno. Oggi fa un'intervista a Repubblica, Claudio Tito, per due pagine interne di Repubblica, 10 e 11, e prima pagina del quotidiano, cerca di chiedergli, insomma, ma si candida oppure no? Claudio Tito: tutti mi chiedono di candidarmi, così cambierò il PD. Però in realtà non risponde alla vera domanda, mi candido oppure no. Tanti amministratori, tanti sindaci, militanti ripongono nel PD le loro speranze e chiedono a me di mettermi in gioco. A loro dico: dobbiamo costruire un PD moderno, aperto, pensante e non pesante, perché solo il PD può far uscire l'Italia da questa crisi. Ecco come cambierò il PD: voglio un partito moderno e leggero, non un castello di capi corrente. In realtà Renzi non scioglie la riserva mi candido, non lo annuncia, ma si capisce ormai che si candida a segretario del PD, e si capisce che in tutta l'intervista, visto che parla del nuovo PD che vorrebbe. Ce l'ha con D'Alema, chiede Claudio Tito. No, stavolta no, ce l'ho con chi privilegia il dibattito sugli organismi rispetto alle idee, perché io voglio un PD in cui vinca la leggerezza, che sia libero da certe burocrazie simil ministeriali, che invece di essere pesante sia pensante. D'Alema, dice Renzi, parte dal presupposto che non devo fare il segretario, ma non devo fare neanche il sindaco. Devo fare tra qualche anno il candidato premier designato dal partito. Per questo immagina Strasburgo come luogo dove acquisire esperienza internazionale. Mi piace pensare che sia un ragionamento serio, non lo considero un trappolone. Semplicemente non sono d'accordo, non faccio questa battaglia per sistemarmi da qualche parte, ma per affermare una diversa idea d'Italia. Io voglio un partito, insiste Renzi, che non sia terra di conquista per correnti, ma che sappia conquistare i voti di chi non ci ha votato prima. Nel 2008 il PD ha raccolto 12 milioni di voti, nel 2013 10 milioni. Anche alle amministrative abbiamo vinto, perché il PDL ha perso più voti di noi. Vogliamo recuperare un elemento di entusiasmo oppure no? Lo possiamo fare con una discussione su chi prenderà il posto di Stumpo. Ce l'ha con Nico Stumpo. Quindi si candiderà a prescindere dalle regole? Ecco la domanda chiave. Aspetto la data e sapere se c'è una comunità di persone che crede che questo sia un progetto serio e non una fisima del sindaco di Firenze. Vabbè, insomma, non scioglie la riserva. Aspetto la data. In autunno sceglierà anche Renzi. A proposito di Renzi, il Fatto Quotidiano gli fa le pulci su quella famosa celebre festa recente con il Ponte Vecchio chiuso e dato alla Ferrari, a un evento della Ferrari. Perché il Fatto Quotidiano, a pagina 6, con Tommaso Montanari, dice: ma i 120.000 euro per l'affitto di Ponte Vecchio sono spariti. Renzi lo ha dato a noleggio alla Ferrari, ma il ricavato ufficiale è di soli 2.489 euro. Ma com'è? Il fatto, i famosi 120.000 euro che la Ferrari avrebbe corrisposto al comune di Firenze per il noleggio a ore di Ponte Vecchio. Desaparecidos, evaporati, smarriti, l'unica vera opposizione al super sindaco ha presentato ieri due interrogazioni al Consiglio Comunale, cioè quella di sinistra, dice, per conoscere i dettagli finanziari della festicciola di Montezemolo su suolo pubblico. Le uniche entrate che risultano ufficialmente sono 13.000 euro per il restauro di un'opera d'arte e 17.000 per l'occupazione del suolo pubblico, cioè 2.489 euro per l'occupazione di Ponte Vecchio, 11.295 per Piazza Ognissanti, 2.719 per il Lungarno Vespucci. Insomma, solo questo risulta, e il fatto chiede dove sono spariti questi soldi. Risponderà in autunno? No, non lo so. È che ho qua davanti due titoli: il PD prende tempo, il Corriere, il Messaggero. Letta prende tempo, domani non sarà al vertice di maggioranza. O prendono tutti tempo. Andiamo a sentire, prendiamo tempo, andiamo al traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Ecco qui dal vostro panettiere di fiducia, intanto l'ho letta sul Secolo XIX, pagina 7, torna Antonio Ingroia, partono con Sonia Oranges, racconta, Ingroia torna in campo, punta sui delusi da Grillo, nascono i comitati, viva la Costituzione, torna Antonio Ingroia in politica. Chi vincerà il premio La Carta Costa oggi? Andiamo con calma, intanto c'è ancora altre notizie. La prima, beh, mi ha molto colpito sulla battaglia per il controllo di RCS. Diego Della Valle chiama in causa direttamente il capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Della Valle ha scritto una lettera che è anche diventata una pagina di pubblicità, per esempio su Repubblica, inizia così, avviso a pagamento, presidente Napolitano, abbiamo bisogno di sentire la sua voce, in pericolo la libertà di opinione di un pezzo importante della stampa italiana, vedendo che sulla questione Rizzoli è stato coinvolto da altri, si riferisce a John Elkann, anch'io e credo molti italiani abbiamo bisogno di conoscere il suo pensiero, in atto c'è, per quanto mi riguarda, nessuna disputa o competizione personale con alcuno. È mia ferma convinzione che in un paese democratico la stampa debba essere indipendente, libera di esprimere le proprie opinioni senza vincoli o pressioni. Nel caso specifico del gruppo Rizzoli bisogna evitare che chiunque tenti di prenderne il controllo per poterlo poi utilizzare come strumento di pressione. E dice, insomma, mi sono rivolto a lei, scrive Della Valle, perché per ottenere tutto questo, considerando l'attuale indisponibilità di alcuni protagonisti a seguire il percorso, e cioè che il gruppo che io rappresento, Fiat, Intesa, Mediobanca, invece di rafforzare le nostre posizioni facciamo un passo indietro, lasciamo l'azionariato del gruppo liberandolo così da tutte le vecchie polemiche, e insomma, visto che gli altri non vogliono, c'è bisogno di una voce forte al di sopra delle parti, di massima autorevolezza, che lo richieda nell'interesse di un processo indispensabile di modernizzazione del paese. L'esito di questa questione, signor Presidente, scrive ancora Diego Della Valle, non riguarda solo il gruppo RCS, ma sarà interpretato da molti italiani come segnale forte per capire se veramente si vuole che il paese cambi, si modernizzi, migliori, o se invece lo si vuole lasciare a chi ha contribuito fortemente a portarlo nelle precarie condizioni in cui si trova. Insomma, un appello vero e proprio, Giorgio Napolitano, intervenga, perché la libertà di stampa è in pericolo, la lettera finisce anche come notizia su tutti i giornali, RCS, Della Valle a Napolitano, libertà di stampa in pericolo, così titola il Messaggero, oppure Libero, Della Valle trascina il Quirinale nella battaglia per il Corriere. Vabbè, la cronaca non è solo banale cronaca, ma insomma il gesto del Papa di andare a Lampedusa e l'apertura per tutti, per molti dei quotidiani, Avvenire dedica proprio le prime tre pagine anche con il discorso integrale che Papa Francesco ha fatto a Lampedusa, anche quel passaggio in cui dice che la cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle ma non sono nulla, sono l'illusione del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. Ecco, quel richiamo alla globalizzazione dell'indifferenza, al di là delle interviste, il ministro Chieng fa tre interviste all'Unità, Repubblica e al Messaggero. Al di là delle analisi, beh, mi piace leggere quello che scrive Giuliano Ferrara, In prima pagina del Foglio, Lampedusa la ricca, caro Francesco, il gesto è meraviglioso, la liturgia della vita, del mare, del soccorso e dell'accoglienza a carattere, senso, parlo a tutti, non solo ai cristiani militanti o al clero o ai fedeli cattolici, bravo. Ma hai fatto un errore. La globalizzazione è alla radice della speranza, non la sua negazione nell'indifferenza fattasi mondo. La gente che viene qui in Occidente sfidando la morte non lo fa per inseguire falsi miti risolti nel cinismo di uno sviluppo incurante degli ultimi. Lo fa per sfuggire alla miseria della vita, alla sua violenza in un mondo che, a quanto se ne capisca fino ad ora e con riserva per molti aspetti della sua condizione moderna, promette emancipazione, liberazione attraverso libertà civili e mercato per via della loro alleanza. Questo andava detto, ricordato con forte caratura razionale. Dunque, scrive Ferrara, tutto splendido, la decisione, il viaggio, il calice di legno, il gesto che parla da solo, il calore cristiano alitato come vento sul mare, sulle sue onde col linguaggio dei fiori, della memoria, della compassione. Vorrei vedere che non fosse così, ma su un punto non si può transigere, secondo il mio modesto parere. Qui non è tutto giustizia, carità, libertà e benessere, figuriamoci, ma qui è la soluzione, lì la mera sofferenza come sistema. Questo Giuliano Ferrara che commenta la visita del Papa. Siamo al premio La Carta Costa? Ebbene sì, e oggi siamo nettamente sulla Stampa, dove Lorenza Castagneri, per un'intera pagina 21, c'è un cappello di paglia, un classico Panama, con gli occhiali o con il bikini, purché sia di paglia. La grande moda dell'estate è il Panama, un tocco casual con qualunque abbigliamento, e ci sono le foto di Lapo Elkan, Barbara Berlusconi e Giorgio Napolitano. La moda lo reclama a gran voce! Non ve ne siete accorti, cari italiani, in spiaggia, magari abbinata a un bikini, a un costume intero in stile vintage, in città per dare il tocco finale a un look casual ma studiato che non lascia nulla, ma proprio nulla al caso. È il cappello di paglia! Un must per l'estate del 2013. In tinta unita, corollato, arricchito con un foulard a fiori, a larghe tese, a Panama, non importa. Ciò che conta è che sia di paglia, il materiale più amato della bella stagione. Una pagina intera della Stampa. Cara Lorenza Castagneri, la paglia costa e la carta costa. La carta costa. Una pagina sul must, il cappello di paglia. Andiamo al giornale radio. Ascoltate Alino Milan, l'unico giornalista che legge il presente, ricorda il passato, predice il futuro.